Si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. E finalmente ci siamo alle 8:38 minuti. Una buona giornata a tutti gli ascoltatori e buongiorno anche a te, Carlo. Come va? Tutto bene? Buongiorno Laura, va bene, va benissimo. È tutto il giorno che penso a tutte le statue con cui abbiamo ripopolato questo paese, anche se solo virtualmente. Esattamente. Infatti vorrei quasi rinnovare l'invito che abbiamo fatto ieri. In questo periodo in cui vengono abbattute o si propongono abbattimenti di statue, ecco, noi di Si può fare non siamo per l'abbattimento delle statue, anzi ci chiediamo: a voi che statua vi manca? Aggiungiamo statue. Voi, secondo voi, a quale personaggio o a quale anche avvenimento, quello che volete, manca una statua in questo paese? Chiamateci all'800 24 00 24 per dirci la vostra statua. E chiamateci allo stesso numero 800 24 0024 per indovinare il personaggio della settimana. Poi ci potete scrivere anche certo. Al 349 238 6666. Questo non vale per indovinare il personaggio della settimana, perché se lo indovinate vi portate a casa un libro, ma dovete farlo rigorosamente live in voce e quindi dovete telefonare. Adesso diamo subito l'invito, l'indizio, Carlo. Subito. Si preoccupa per certo. L'ambiente. Si preoccupa per l'ambiente. Spremete le meningi e iniziate già adesso a prenotarvi. E tu invece nel frattempo, Carlo, cosa ci proponi? Guarda, io sto leggendo l'autobiografia di Woody Allen, edita dalla Nave di Teseo, e anche Wuhan, i diari da una città chiusa di Rizzoli, di cui spero di parlarvi prestissimo. Però ieri mi sono incantato tutto il giorno e ammetto anche parte della notte in un libro importante che si può sbocconcellare, leggere, studiare e anche consultare alla bisogna. È L'Atlante delle donne, ideato e scritto da Yoni Seeger, pubblicato in Italia da Ad Editore. In un momento storico in cui la mole di dati disponibile è impressionante, no? Tanto che anche noi ne parliamo quotidianamente in radio, ma anche al bar, penso a dati sensibili, dati da proteggere per questioni di privacy, i dati che regaliamo quando ci iscriviamo a certe piattaforme, alla compravendita di dati più o meno legale, mai come ora diventa importante la visualizzazione dei dati, la loro lettura e l'interpretazione. L'Atlante delle donne si può anche definire un'infografica, con disegni, diagrammi, cartine, schede, oltre anche che brevissimi testi esplicativi su tutto ciò che riguarda il mondo femminile. Parlo di tutto veramente, del lavoro, salute. Carlo, purtroppo non so cosa c'è in questo collegamento, ma noi ti sentiamo malissimo. Allora, mentre lo ripristiniamo, salutiamo il primo ospite di questa nostra giornata, che è Daniele Ursetta, presidente del Motor Club VRR. Buongiorno, siamo a Segrate. Buongiorno. Allora, com'è andata la serata? Noi sappiamo e lo apprezziamo moltissimo che voi avete cominciato a stampare con la stampante 3D dei bellissimi salva orecchie per quelli come me che soffrono di mal di testa alla fine di una giornata con la mascherina, perché la mascherina tira le orecchie, non c'è niente da fare, disturba. Com'è andata? No, bene, bene, esattamente, stiamo stampando, anche in questo momento stiamo continuando a stampare. È un'iniziativa fantastica, quindi voi avete questa stampante a disposizione, lei ce l'ha personalmente? È la sua? Sì, ce l'ho qua a casa nel salotto. E dopo aver aiutato, quindi lavora, e dopo aver aiutato il comune di Vimodrone comunque a consegnare, no, a bordo delle vostre motociclette, farmaci, mascherine nel periodo del lockdown, adesso invece date una mano a coloro che appunto soffrono come me di questo problema. Come vi è venuta questa idea? Sì, abbiamo deciso di non fermarci, insomma, quello che era il contributo richiesto dal comune. Ci è venuta perché in realtà proprio in una di queste attività ci siamo occupati degli ingressi contingentati al mercato e lì è chiaramente quelli che hanno gli stand, le bancarelle di vendita, insomma, uno di questi gli sanguinavano le orecchie perché per la mascherina, perché a fine giornata aveva proprio i segni e stava male. E lì ci è venuta l'idea di poter cercare di risolvere in qualche modo, insomma, trovare una soluzione. Su internet abbiamo trovato il progetto che è open source, quindi gratuito, abbiamo iniziato a stampare e sono iniziate ad arrivare le richieste, le abbiamo pubblicato sui nostri social e hanno iniziato a chiederle, quindi abbiamo deciso di aumentare la produzione anche di notte, di non fermarci più. E quindi alla fine ogni venerdì sera, ogni venerdì sera le distribuite a chi si presenta sostanzialmente. Sì, esattamente, chiunque ne ha bisogno, insomma, il venerdì alle 21 noi siamo segrete in via Miglioli, non vogliamo nulla, cioè uno arriva e se ha bisogno li vediamo, nessun problema. Allora, sono delle fascette, ho visto praticamente. Sì, delle fascette in plastica in PLA. Che passano quindi dietro la testa e uniscono i laccettini, aiutano. Agganciano i laccettini alle fascette, ci sono quattro regolazioni per lato e evitano appunto quel fastidio alle orecchie. Quel taglio che dà, cioè taglio insomma, comunque quella pressione che fa l'elastico dietro l'orecchio. Mi sembra una cosa molto carina, voi non lo fate pagare, però insomma delle spese le avete alla fin fine. Ma sì, poche, per cui le assorbiamo tranquillamente, non abbiamo nessuna intenzione di lucrare su una cosa del genere, non esiste. Proprio contro i nostri principi morali, mi spiace, quindi... Va bene, non quanto pensate fare di continuare con questi venerdì delle fascette? Finché c'è richiesto. Finché c'è. Quindi, finché continueranno ad arrivare persone, noi continueremo ad andare avanti. Benissimo, buon lavoro allora, grazie ancora per il vostro impegno. I motociclisti del VRR di Segrate, quindi siamo qui vicini a Milano, tutta la zona può diciamo far riferimento a loro, li trovate anche su internet. Daniele Ursetta è stato con noi e adesso abbiamo la viabilità, tra pochissimo. Si può fare. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus free, dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni e aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. A me è già venuta voglia di mare, non so, Carlo, adesso ti risentiamo bene, credo. Spero di sì, sto ballando, ma penso che mi sentiate anche se sto ballando. Ah, ok, però tieni sempre il microfono vicino, ricordati che altrimenti poi ti sentiamo in ritardo. Lo so che il surf è bello, però è collegato alla mia bocca il microfono. Grande. Quindi più vicino di così è impossibile. Ok, perfetto. Allora, cambiamo decisamente argomento dopo aver parlato di motociclisti che distribuiscono fascette per tenere, no, le nostre mascherine in posizione non fastidiosa. Parliamo di imprese di imprenditori stranieri. Sono ben 600.000 in Italia, secondo gli ultimi studi. Ne abbiamo in collegamento uno con noi, che ormai però è straniero per modo di dire, perché è più di 20 anni che è in Italia. Si chiama Madi Sakande, buongiorno. Buongiorno signora Bettini. Buongiorno, allora lei è un imprenditore. Buongiorno. Di sede vicino a Bologna, diciamo, no? Come zona? Sì, siamo a Calderara di Reno, zona artigianale, zona industriale, Valgellino, quindi in provincia di Bologna. Originario del Burkina Faso. Sì, sono originario di... Ha una storia complessa alle spalle, non so, vogliamo rapidamente ripercorrere. Lei arrivò con un visto turistico, già lavorava in Burkina Faso, un lavoro qualificato, non era in cerca, diciamo così, non era in fuga da qualcosa, ma in cerca di crescita professionale in qualche maniera. Però le cose sono andate all'inizio molto diversamente, no? Eh beh, sì, è proprio così. spesso e volentieri si pensa di far via dell'Africa, della guerra o di altre cose, ma io nel mio caso ero partito tranquillamente da Ouagadougou pensando di trovare un continente europeo che si vede alle televisioni è completamente diverso di quelli che si vive, quindi sono arrivato nei primi momenti con il visto turistico, quindi sapevo appunto il discorso dei documenti, che quando arrivavi che poi avevi documenti di soggiorno, poi, perché poi gli occidentali quando vengono in Africa non ci sono discorsi qua, quando si arriva si entra regolare, si fa quelle che vuole finché non vanno via, quindi per me io pensavo una certa reciprocità anche nel ricevere le gente. Sono arrivato, mi sono confrontato dopo qualche settimana quando è scaduto il visto che non potevo avere un lavoro regolare e quant'altro, quindi e quindi c'è stato il periodo in cui ha fatto il bracciante a Foggia, poi lentamente insomma è riuscito a regolarizzarsi, è arrivato a Bologna e lì ha poi alla fine intrapreso quella che è la sua carriera attuale, che l'ha portato addirittura a rilevare questa azienda che si chiama New Cold System insieme a tre soci, questo è accaduto ormai 9 anni fa, giusto? E si occupa di refrigerazione e condizionamento, pezzi di ricambio in particolare, quindi ha dovuto chiudere nel periodo Covid e ha dovuto riaprire per i fornitori, quindi è stato un periodaccio anche per voi. Sì, purtroppo lo è tuttora, perché è una situazione che, come lo sapete, che molte, quasi tutte le aziende sono in queste situazioni di difficoltà, però noi abbiamo dovuto riaprire, come sapete il settore del freddo fa parte della quotidianità, non si può concepire il mondo moderno senza il settore del freddo, basta pensare alla conservazione del cibo a casa o nei supermercati, basta pensare all'ospedale, il condizionamento per far stare le persone o per certi macchinari che sono nell'ospedale che hanno bisogno di sistemi di refrigerazione per funzionare, quindi pure dovendo chiudere per codice Ateco, però il decreto permetteva lo stesso per chi aveva sapeva di far parte di una filiera e di poter fare la richiesta, riaprire. Il nostro caso è chiaramente il nostro frigoristi, cioè quelli che potevano venire a comprare i pezzi di ricambio per andare a montare, erano utilizzati a lavorare giustamente per il bisogno e noi che siamo quelle che dovevamo dargli i pezzi per lavorare eravamo chiamati a chiudere, però potevamo anche fare la richiesta, quindi non potevamo tirarci indietro in una situazione del genere, come dire ai medici di lavorare e chiudere le farmacie, quindi noi ci siamo sentiti in dovere, sono sentiti in dovere anche noi di andare a richiedere il permesso al prefetto per aprire, non perché si possa fare tanto, però almeno per essere lì, per dare aiuto a chi ne ha bisogno. Infatti ci è capitato di fornire materiale con due strutture ospedaliere lontane da noi. Noi siamo a Bologna, però l'abbiamo spedito in zone molto lontane da Bologna, quindi vuol dire no, in termini di business, di affari, sicuramente non è che ci si è guadagnato, perché chiaramente era tutta una rimessa, però eravamo lì perché il Covid anche richiedeva l'impegno di tutti e questo era il nostro impegno. Adesso ci sono tante aziende che sono portate, che giustamente non si è lavorato, non ha avuto possibilità di guadagnare, poter pagare, quindi siamo anche noi in attesa come tanti altri di pagamenti in ritardo dovuto alla situazione, quindi certo, non lei è una situazione. Quando ci siamo sentiti al telefono mi ha detto è un momento in cui si rischia o comunque molti o insomma si governa guardando lo specchietto retrovisore, che è una bellissima espressione, cioè bisognerebbe invece cominciare secondo lei a guardare avanti, cioè non si no, smettere di... Sì, io questo è il mio modesto pensiero, no? Come diceva lei prima, sono 23 anni che sono in Italia, quindi ne ho visto un po', ecco, ne ho 48, quindi quasi diciamo la mia vita di adulto l'ho fatto qui in Italia. E io, come dico, ci sono alcuni argomenti che non voglio entrare perché comunque non fa parte delle competenze, però tendo sempre a vedere che ci guidiamo guardando lo specchietto, perché guardando lo specchietto prima o poi sbattiamo, perché sbattiamo su qualcosa, perché lo specchietto è quello che abbiamo superato, da parabrezza impresa e quelle che è davanti. Però vedo che spesso si guida ben volentieri guardando sempre lo specchietto, quello che è passato, eravamo, avevamo, ma non è più quello. Perché è comodo, secondo lei? Stiamo andando avanti e il mondo sta cambiando, no? Vedi che siamo passati dall'era del guinzaglio invisibile che si chiama cellulare al museruola. Quindi sono cose che stanno cambiando. Quindi dal guinzaglio alla museruola c'è un'evoluzione in qualche esatto. maniera. Purtroppo sì, diciamolo in modo ironico, però questa è, perché stiamo vivendo dei momenti che io non credo che chi vive oggi o anche chi ha vissuto in passato può dire di aver vissuto dei momenti come questi, in termini di bisogno, in termini di numeri. Le difficoltà fanno sempre parte della vita, in un modo o un altro ci sono sempre state difficoltà, sono state guerre, sono tante altre cose, però diciamo che noi stiamo vivendo un'era, un cambiamento d'epoca che è diverso e che richiede un spirito diverso e che richiede di vedere diversamente il mondo e di comportarsi anche in modo diverso. E serve per il nostro futuro più che altro, o almeno i futuri dei nostri figli e dei nostri nipoti, perché poi le nostre azioni di oggi sono quello che permetteranno loro di avere una vita un po' più serena o comunque più ragionata. Sì, abbiamo vissuto e continuiamo a vivere oggi su alcune cose perché è stato mi dica. Beh, le voglio chiedere una cosa, ma a che punto è secondo lei l'Italia dal punto di vista del razzismo? La sua è una storia straordinaria perché appunto lo ricordiamo, lei è venuta in Italia con un visto turistico, ma soprattutto in aereo è arrivato e giustamente si è detto ma io non capisco come mai io non posso lavorare, nel senso che se un europeo prende un aereo e va nel Burkina Faso può lavorare. E mi chiedevo che Italia ha visto, una lei diceva l'Italia che ho visto in televisione, poi l'Italia che ho visto davvero, e soprattutto il fatto che lei all'inizio faceva il bracciante, adesso invece lei è un grandissimo imprenditore, addirittura cavaliere del lavoro. Io mi chiedo, la trattano in maniera diversa gli italiani adesso che è un imprenditore, invece prima era semplicemente un bracciante? A che punto è l'Italia, visto che anche Black Lives Matter anche in Italia c'è, e volevo capire se questo è un buon segno? Oddio, mi porta in argomenti che non entrarci, perché io vedo tutti questi discorsi legati, cioè, al fatto di non conoscere le persone stesso, e al parto dell'incognito che fa parte delle cose degli esseri umani. Se uno non conosce una cosa o non conosce una persona si spaventa, poi dopo quando lo conosce cambia atteggiamento. Li prendo solo un esempio: lei a casa o no, se è fuori, certo, lontana da casa, si gli arriva la mamma da dietro, gli tocca le spalle, le prende subito un spavento. Poi dopo si gira, si accorge che è la mamma, che direi che è la persona che le ama di più di tutte, no? Poi dopo sì, la stessa mamma gli dà una sberla da dietro e dice ah mamma, perché mi... cioè non c'è più quella reazione primaria di spavento. Io penso che gli esseri umani, io riputo che il colore sono tutte cose inventate, no? Perché sono tutti esseri umani. Io devo salutare purtroppo Madi Sakande, grazie per essere stato con noi. Carlo, ci ritroviamo subito dopo GR24. Si può fare. Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Insieme con Si può fare, vi dico qualche statua che è stata proposta. Carlo, ti leggo qualche WhatsApp che è arrivato, so che tu non li puoi leggere da casa, quindi ti dico io. Allora, una statua a Scirea. forse perché era appena passato il reportage prima. Poi una statua per Charlie Chaplin, John Lennon, Isaac Asimov, Che Guevara, Albert Einstein. Insomma, sono arrivate un po' delle vostre proposte al 349-238-6666, però c'è sempre, no, la possibilità di partecipare per il personaggio della settimana. Esatto, il personaggio della settimana, chiamando sempre lo stesso numero, abbiamo già dato il primo indizio, ovvero che ha pensato all'ambiente, si occupa d'ambiente, giusto? Si preoccupa per l'ambiente. Esatto. Sì, precisamente. E invece fammi finire solamente la questione del libro che prima abbiamo interrotto, questo Atlante delle donne, scritto da Johnny Seeger, ad editore, è un libro veramente importante. Lei è docente di Global Studies alla Bentley University e questa analisi è veramente meticolosa e attenta. Lei, l'autrice, scrive: femminismo per me significa dare alle vite delle donne la stessa attenzione, curiosità e analisi che le vite degli uomini normalmente ricevono. Ora, dico semplicemente che guardandolo dal punto di vista delle donne, anche il mondo, diciamo, non ha più molta validità la consueta distinzione fra paese sviluppato o paese sottosviluppato. Faccio un esempio: le donne hanno la stessa identica proporzione di rappresentanza nei governi, per esempio del Madagascar, del Kirghizistan e degli Stati Uniti d'America, la stessa identica proporzione. Ho finito. Hai finito? Allora io, che dire, sulla questione donne ci torniamo. Dai, adesso vorrei tornare sulla questione ambiente invece. Sulla questione ambiente con Lauro Guidi, che è il presidente di Agri Bologna. Le diamo un buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, Agri Bologna è un consorzio attivo da oltre 20 anni nella produzione e distribuzione di ortofrutta fresca, che sta sperimentando un progetto di nome Sapiens per l'agricoltura di precisione, con particolare riguardo e attenzione al consumo idrico. Dico bene? Certo. Allora, un po' come funziona? Sì. Prego. Beh, allora mi presento, sono Lauro Guidi, sono presidente di Consorzio Agri Bologna, quindi consorzio. Un termine non corretto: noi siamo una cooperativa agricola di primo grado con circa 130 soci nella nostra base sociale. Territorio chiaramente di riferimento è l'Emilia Romagna. Chiedo venia, ma l'ho letto sul vostro sito, è andata a dare un ritocchino allora. Allora, no, va bene, è una cooperativa. No, è perché la denominazione è Consorzio Agri Bologna. Va bene. Ma di fatto lei ha letto. Comunque, secondo me, possiamo uscire da questa questione delle denominazioni, è pur sempre domenica, i nostri ascoltatori, diciamo. Sono più incuriositi sicuramente dal progetto Sapiens. Beh, allora, il progetto Sapiens va in una direzione molto chiara: migliorare l'utilizzo dell'acqua. Allora, io partirei un minuto, se mi date un minuto, certo, farei una cronistoria. Cioè, negli anni 2000 circa c'è un'evoluzione nell'uso dell'acqua in agricoltura, in orticoltura in particolare. Cioè, prima c'era un uso abbastanza poco tecnico dell'acqua, abbastanza smodato, in particolare laddove ce n'era tanta. Il nostro territorio è un territorio molto ricco di acqua, sia di superficie che di sottosuolo. Pertanto l'agricoltore non è che aveva dei grossi bisogni di risparmiare acqua. Poi in quegli anni iniziò una sensibilità diversa, grazie anche a dei contributi comunitari mirati che noi abbiamo cercato di utilizzare molto bene, e da quel momento inizia un uso più preciso dell'acqua. Quindi l'acqua viene utilizzata con strumenti di aspersione sulla coltura molto più mirati. Quindi diciamo che in 20 anni, con questa seconda rivoluzione dell'uso dell'acqua, si riduce circa il 50% dell'utilizzo dell'acqua ai fini agricoli. Perché? Perché si finalizza molto, si localizza molto l'uso dell'acqua. Non dimentichiamo che negli anni 80, forse anche prima, i grandi innovatori nell'uso dell'acqua sono gli israeliani, che poi diffondono queste tecnologie a livello mondiale e tutte le acquisiscono, le migliorano e le perfezionano. Poi siamo arrivati al giorno... E anche un po' nostri. Gioco forza, avendo loro, diciamo, 500 gocce d'acqua, mi esatto. sembra giusto prendere esempio il da loro. Ma arriviamo a oggi. L'ingegno. Loro esatto. hanno gustato l'ingegno. Arriviamo a oggi, quindi 70, 80, 90 e oggi? Oggi la tecnologia ci dà altri strumenti, la sensoristica, tutto ciò che è collegato alla tecnologia informatica ha fatto passi da gigante. Ed oggi abbiamo iniziato a testare questi sensori che vengono inseriti nel terreno. Questi sensori rilevano il tasso di umidità nel terreno, inviano dei dati a delle centraline, questi dati vengono messi a disposizione dell'azienda agricola che non irriga più in funzione di ore, cioè, ma di necessità. Ogni 30 ore irrigo la lattuga. No, oggi con questo test si dovrebbe arrivare, irrigo la lattuga o lo zucchino, il cetriolo, qualsiasi pianta, nel momento tutte in cui volte il sensore mi dice che il terreno ha bisogno di acqua. Precisamente. Quindi questa è l'evoluzione. Certo. E questa ma è questo aumenterà sì. i costi dal punto di allora, vista del contadino? Nel senso, ottimo, la tecnologia, ottimo, ma per il contadino costerà di più? Allora, noi dobbiamo dire che in questa fase è una fase sperimentale, quindi difficilmente oggi siamo in grado di capire questo. Però questo cosa dovrebbe portare da qui a 5 anni? Queste centraline dovranno poi inviare dei dati alle centrali di pompaggio e smistamento dell'acqua per far sì che ci siano dei meccanismi di distribuzione dell'acqua vicino alle piante intelligenti, ovvero che vadano in automatico a mirare l'irrigazione. Quindi questo cosa comporterà? Ulteriori investimenti in meccanica idraulica che poi porteranno a quel punto. Per darle una risposta, credo che ci sarà qualche investimento iniziale che andremo a quantificare come costo ad ettaro, ma non saranno molto elevati, ma con degli enormi risparmi sia di manodopera sia di acqua. Teniamo conto che l'acqua da agricoltura ha già dei costi, nella zona nord in Emilia Romagna costa poco, costa ha un valore ad ettaro, si paga un corrispettivo ad ettaro, ma ci sono zone del centro-sud dove l'acqua ha dei costi molto alti, costi di irrigazione. Quindi il salto, se noi calcolassimo un ammortamento del bene inserito, secondo noi a medio termine dovrebbe addirittura generare dei risparmi tra maggiori costi e minori costi. E quindi saremo molto interessati a vedere i risultati di questa vostra sperimentazione. Noi la ringraziamo molto, Lauro Guidi, il presidente del Consorzio Agri Bologna. Ci salutiamo, abbiamo la viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Make it, do it, makes us 800 24 00 24 per indovinare il personaggio della settimana. Se sei d'accordo, Carlo, io darei il secondo indizio, così che diciamo si indirizzino un po' di più i nostri ascoltatori per riuscire a capire di chi o di cosa si tratta. Certo che sì. Ce l'hai? Il secondo indizio del nostro personaggio, che oltre a preoccuparsi per l'ambiente pensa spesso a Milano. Quindi abbiamo ristretto il campo. Esattamente, abbiamo ristretto il campo. Ho sentito che non c'è tanto traffico questa mattina sulle strade, no? In questo ultimo collegamento sulla viabilità, però ieri invece si registravano le prime code verso i luoghi di vacanza, quindi tentativi di weekend fuori porta. Ebbene, che cosa chiedono gli italiani però dopo questi tre mesi di chiusura per Covid-19? Chiedono ovviamente sanificazione per tutto ciò che frequentano. Un'indagine in questo senso è stata fatta da Assosistema Confindustria. Marco Marchetti ne è il presidente, a lui diamo il buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, voi vi occupate specificamente di noleggio e sanificazione della biancheria per alberghi e ristoranti, tra le tante cose, va bene, di cui vi occupate, ma nello specifico a noi interessa questo passaggio, e avete condotto un'indagine specifica su quello che le persone vogliono come garanzia, no, per tornare a frequentare alberghi e ristoranti, per l'appunto. Ci dà qualche risultato? Sì, le confermo. Abbiamo fatto svolgere questa analisi insieme a Confindustria Alberghi e ci siamo posti in obiettivo di avere una fotografia innanzitutto della crisi, di ciò che è accaduto, poi di capire quali erano le aspettative dei turisti e quali poi naturalmente le prospettive. Uno dei primi dati che emerge è comunque la fiducia che i consumatori hanno nelle strutture ricettive alberghiere. Questo è un segnale, direi, importante, che ripaga degli sforzi fatti nel passato di tutto il settore. Uno degli elementi importanti sono appunto le attese che hanno i consumatori rispetto a quello che vogliono trovare, in cosa possono essere rassicurati. Allora, gli ambienti, ai primi posti abbiamo gli ambienti comuni igienizzati in tempi adeguati, gli spazi adeguati, quindi distanziamento, e poi troviamo l'igienizzazione delle lenzuola, delle federe, di tutti i tessili del sistema letto, della camera e del bagno e anche del ristorante. Poi c'è l'igienizzazione delle camere e degli arredi in generale. Ecco, questo è un elemento che tocca oltre il 90% di tutti gli intervistati dell'indagine, e quindi è un elemento molto importante. Consideriamo il fatto che un ospite nelle strutture alberghiere ricettive ci passa 8 ore del proprio tempo, quindi deve stare tranquillo, deve essere super in un ambiente confortevole, anche coccolato, insomma, uno ci mette la faccia. Questo un po' è uno slogan di cui parliamo, e ce la mette per 8 ore, non ci passa per qualche istante e poi si igienizza, insomma, 8 ore, quindi ha bisogno di avere un ambiente confortevole. Ecco, questo è sostanzialmente le attese che il consumatore ha. Ci sono le prospettive, adesso non so se magari... No, infatti volevo portarla un po' su questo, perché è chiaro che nel letto dormiamo nel letto con le lenzuola, su questo non c'è dubbio. Invece nei ristoranti io ho visto che molti stanno sostituendo con tovagliette, cioè stiamo tornando a quel monouso tanto deprecato, quindi abbiamo fatto tanta fatica a togliercelo e poi dopo tac lo riportiamo dentro. Anche questa è una preoccupazione che dovremmo avere, perché comunque si possono sanificare i tessuti tranquillamente. Assolutamente sì, anzi, io le confermo, tant'è che il primo aspetto di cui dovremmo preoccuparci è: ma quali garanzie abbiamo che quel prodotto che viene utilizzato sia nel ristorante che nell'albergo, ma adesso parliamo del ristorante, abbia le caratteristiche igieniche corrette per poter pranzare e degustare in tranquillità? Cioè, quali sono le certificazioni che deve avere quel prodotto? Ecco, il prodotto riutilizzabile che è trattato, mantenuto e sanificato in Italia, ricordiamoci che noi abbiamo delle industrie sul territorio e quindi che fanno questo specificamente, certo. Abbiamo delle industrie sul territorio, quindi noi siamo in grado di offrire a tutte le strutture ristorative un prodotto sanificato, certificato. Abbiamo una certificazione che è la 14.065, che unita alle linee guida di Assosistema, che è la nostra associazione in Confindustria, dà i limiti di carica batterica che possono avere questi tessuti, e quindi uno può pranzare con eleganza, comfort e in un prodotto sanificato. Il monouso, l'usa e getta, non sappiamo da dove arriva. Prego. Ma se io vado in un ristorante, devo chiedere di mostrarmi questa autocertificazione 10.426? Adesso il numero l'ho sicuramente sbagliato. Ecco, beh. Allora, no, guardi, tranquillamente lei può chiedere che le venga esibita una certificazione che si chiama UNIEN 14.065 con le linee guida al suo sistema. Ripeto, 14.065 con le linee guida al suo sistema. Quindi sarebbe furbo da parte del ristoratore esporla, di dire io ce l'ho. Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi abbiamo anche un marchio che forniamo ai ristoratori che sono clienti delle nostre imprese, che è un marchio che si chiama Oltre Pulito Qualità, che si può mettere sulla vetrofania, si può mettere in tanti luoghi, la sicurezza igienica. Sono due marchi che rappresentano appunto questa abbinata, una certificazione 14.065. Ma mi perdoni. Prego. Al di là, diciamo, della possibilità di avere la vostra certificazione, abbiamo letto da molte parti, cioè ci chiediamo, passando dal punto di vista del consumatore, cioè ci chiediamo l'albergatore o il ristoratore che tipo di certificazione è obbligato ad avere, perché qualcuno dice che è una sorta di autocertificazione. Allora, se l'albergatore dice no, io certifico che qua è tutto pulito, è un conto, se invece serve, cioè se esiste un controllo di questo, ecco, la domanda forse è questa. Guardi, naturalmente siamo in Italia, esistono tantissime sfaccettature rispetto al tema. Questa certificazione 14.065 è una certificazione a carattere volontario europea, ok, UNIN europea, e quindi vale su tutto il territorio. È l'unica certificazione che garantisce il tessile, il sistema di sanificazione del tessile, è l'unica in tutta Europa. Quindi, se vogliamo avere una garanzia seria, dobbiamo pretendere che ci sia questa certificazione, ripeto, allegata a queste linee guida sul sistema che stabiliscono i limiti della carica batterica che devono avere questi tessuti. E questo è altrettanto importante, perché sennò uno potrebbe certificare un dato molto alto che non è soddisfacente dal punto di vista igienico. Sarebbe comunque certificato. Ecco perché ci vuole questa abbinata, che è 14.065, certo, linee guida sul sistema. Ma uno ha questa certificazione nel momento in cui fa lavare la biancheria del proprio ristorante, del proprio albergo, da qualcuno che lavora secondo questi criteri. Esattamente, ci sono e fortunatamente in Italia abbiamo molte imprese che hanno sono dotate di questa certificazione, perché è un percorso decennale che hanno fatto le migliori imprese del settore in una prima fase e poi hanno trascinato tutto il settore, quindi numerose imprese sono dotate, e quindi dobbiamo chiedere che ci sia questo tipo di certificazione rispetto al tessile che utilizziamo. Ma se il ristoratore invece li fa lavare le tovaglie da sua mamma, ovviamente non ha la certificazione, ma quelle tovaglie sono pericolose? Cioè, in lavatrice va via il virus o no? Allora, le faccio un esempio. L'ISS, l'Istituto Superiore della Sanità, nel rapporto, mi sembra, numero 20 di quest'anno, ha dato questa indicazione rispetto, per esempio, al lavaggio e sanificazione dei tessuti che provengono da un ambiente Covid. Quindi ci stiamo spostando in un'area molto a rischio, attenzione. E dice, devono essere lavate a 90 gradi, oppure, esempio, devono avere certificazione 14.065. Perché? Perché ha riconosciuto, cioè ha preso uno standard che è il 90 gradi, da 60 a 90 gradi, che è uno standard riconosciuto a livello generale. Però dice, se vuoi essere più tranquillo, utilizza la 14.065. È un po' questa, è la messa come esempio, quindi non è obbligatoria, ma se uno vuole stare più tranquillo, va alla ricerca delle cose codificate e più tranquille, insomma. E quanto, diciamo, appunto, tra quello che si lava le cose in albergo e darlo a uno specialista come i vostri associati, è una spesa sostenibile, penso, per piccoli alberghi, piccoli ristoranti, cioè, no? Perché immagino che per i grandi stia nelle cose che non se lo fanno loro e lo danno fuori, ecco. Assolutamente sì, naturalmente anche colui che ha questa attività e mantiene questa attività all'interno. Noi come attività nasciamo nelle grandi strutture alberghiere, nasciamo come lavanderie interne, l'origine, siamo insiti in quel settore alberghiero. Chi fa la propria attività all'interno, anch'esso ha la possibilità di sanificare al meglio la propria biancheria. È chiaro che deve applicare un metodo, un sistema, una serie di controlli, una serie di analisi microbiologiche che in un ambiente piccolo diventano obiettivamente più complicate, più difficili. È più difficile avere un risultato sistematico in un ambiente piccolo e personalizzato, è più facile averlo in un'industria come sono le nostre, dove tutto è codificato e controllato. Senta, ci sono un sacco di domande, incredibile. Allora, vedo che qualcuno scrive carica batterica o virale, cioè qui abbiamo tranquillità rispetto ai due fronti. È Burioni, secondo me, che ha scritto. Naturalmente c'è carica batterica innanzitutto, e c'è un'efficacia assolutamente sulla parte virale. Ok. Questa è assoluta. E poi chiedono se è anche un obbligo la UNI, cos'era, 14.065? 14.065. Ecco, deve essere adottata. Suo sistema. Ok, deve essere adottata anche per una semplice pizzeria? Punto interrogativo. Deve essere adottata, quindi la domanda è l'obbligo. No, non c'è, no, l'obbligo per nessuno. Non c'è, l'obbligo non c'è. È una grande opportunità, perché se vogliamo, se loro vogliono offrire ai propri clienti una garanzia, come fanno a offrirla, punto di domanda, questo è un punto di riferimento a livello europeo e quindi lo hanno a disposizione. E quindi il consiglio vivo è quello di utilizzare questo, visto che il mercato lo offre senza avere dei costi eccessivi. Ma le faccio una domanda stupida, che forse lei è esperto anche in questo, ma il menù verrà sanificato? Il menù verrà innanzitutto, per praticità, non verrà messo, ma verrà esposto, verrà messo, detto a voce, verrà visionato sul proprio telefono. In caso venga messo, dovrà esserci una procedura di sanificazione. Eh sì, infatti. Questa è la prassi che si dovrà utilizzare. Ma senta, l'ultima cosa invece voglio chiedere è, per esempio, questo ascoltatore che forse ha una pizzeria, lui come trova un riferimento? Cioè guarda sul vostro sito, come fa a sapere chi gliela fa la certificazione? Ma innanzitutto deve chiedere al proprio fornitore, okay, deve esigere che ci sia questa certificazione associata alle linee guida, al suo sistema. In caso di dubbio, se volesse avere altre informazioni, assosistema.it, e troverà altre informazioni, appunto, se non si ricordasse la sigla o questa abbinata con le linee guida, assosistema.it, troverà delle informazioni. Troverà anche un elenco di imprese naturalmente associate che posseggono questa certificazione. Ma ve ne sono anche altre, non solo le associate. Ma secondo me adesso... A questo punto si ricorderà tutto, io mi sono praticamente tatuato 14065 sulla mano. Perfetto, si aggiunga linee guida sul sistema, mettere una sigla, che anche questo è molto importante. No, io volevo è troppo lungo per tatuare, non posso tatuarmi al suo sistema. Lo so, però io lo ripeto. La ringraziamo moltissimo. Io volevo solo aggiungere un aspetto particolare che riguarda poi il riutilizzabile in generale, e l'ambiente. Sì. Cioè, c'è un aspetto: noi viviamo in un paese straordinario e meraviglioso per storia, cultura e bellezze naturali. Non siamo il paese dell'usa e getta, siamo il paese del riutilizzabile. Quindi noi dovremmo valorizzare la manutenzione, il riutilizzo e tutto quello che di bello noi abbiamo. L'usa e getta forse lo possiamo lasciare ai fast food, con tutto il rispetto per i fast food, e altri paesi che hanno altre caratteristiche. L'Italia è un'altra cosa. Lo lasciamo agli USA. A noi se piacciono. Se mi permette una battuta, l'usa e getta, lo lasciamo agli USA. Esattamente, ecco, questo è il messaggio finale, benissimo. La sintesi. Grazie molte al presidente di Assosistema Confindustria, grazie Marco mille. Marchetti. Piccola pausa, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, ci sono tantissime domande, sai Carlo, su questa questione dei tessuti. Mi sa che ci dovremmo ritornare, domande, osservazioni, capi della nonna, come facciamo, come siamo sicuri, costa troppo poco. Mi sa che Marchetti sarà di nuovo nostro ospite in una delle prossime puntate. Io ho un'unica risposta, che è 14065. Bravo, e poi linee guida, Assosistema. Esatto. E va bene, comunque no, veramente ci torneremo, perché le curiosità ovviamente in questo specifico momento storico sulla sanificazione dei tessuti e di tutto sono tantissime. Darei il terzo indizio per indovinare il personaggio, perché vedo che oggi è particolarmente ostico. Allora, abbiamo detto che si preoccupa per l'ambiente, pensa spesso a Milano e, diciamo, aggiungiamo, ci sta pensando anche per tempi prossimi, brevi. È stato recentissimamente premiato. E vabbè, vediamo un po'. Adesso avete veramente tutti gli elementi. 824 0024 per intervenire. E andiamo a un altro dei grandi temi di Si può fare, no? Ciò che viene lasciato in sospeso affinché altri che non hanno sufficiente denaro possano così goderne. Allora, abbiamo parlato ovviamente tante volte di caffè, di spesa. Adesso arriva anche l'estate sospesa. Di regali. Regali di Natale, giusto? Adesso arriva l'estate sospesa, che permetterà a persone di buon cuore di finanziare una summer school per i figli di famiglie in difficoltà. Di questo parliamo con Filippo Abrami, che è il responsabile fundraising della sezione Si può fare, guarda caso, di Essere Coop. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Essere Coop per Sociali, per l'esattezza, vero il nome? Buongiorno. Ma esatto. La prima domanda è: ci avete rubato il nome Si può fare? Allora, abbiamo preso la stessa idea dallo stesso film, a giudicare dallo stacchetto iniziale. E dobbiamo fare una joint venture, quella cosa lì, questo nome che dà tanto fastidio agli ascoltatori, perché è inglese. Allora, sì, allora come funziona? Appunto, lei si sta occupando per l'appunto della parte, no, di raccolta fondi per finanziare questa estate sospesa. Come funziona? Dove si svolge? Siamo a Brescia, ma insomma, ecco, come sarà organizzata? Allora, l'idea parte dal fatto che con le nuove direttive c'erano bisogno di spazi molto grandi per riuscire a gestire una summer school come quelle dell'estate precedenti. Quindi abbiamo fatto una cordata con il Rugby Brescia e le realtà educative della zona est del comune di Brescia per riuscire a organizzare questa summer school nello stadio del rugby, quindi avendo a disposizione 15.000 metri quadri di spazio e permettendoci quindi di ospitare quasi 250 bambini della zona. Ovviamente però abbiamo pensato che le famiglie partivano con una problematica: molti sono in cassa integrazione, molti la cassa integrazione non l'hanno ancora ricevuta per intero, molti hanno perso il lavoro, e quindi ci siamo attrezzati, oltre a tenere una retta calmierata per tutti, per cominciare a istituire un servizio che permettesse a chi poteva di pagare una settimana di estate a famiglie che invece non potevano permetterselo. Da qui il nome Estate Sospesa, per cui, come succede col caffè, come succede con la spesa, qualcuno di buon cuore paga una settimana per un bambino che probabilmente non conoscerà mai. E quando siete partiti e quando pensate di chiudere, diciamo, questa raccolta, o andrà avanti finché si può? Allora, il progetto andrà avanti fino al 28 agosto, per cui contiamo di tenere aperta la raccolta almeno fino a fine luglio, dopodiché dovremmo essere riusciti a coprire il budget per tutti i richiedenti. Siamo partiti circa 2 settimane fa, la risposta è già molto buona sia dai privati sia dalle aziende del territorio che stanno contribuendo, e quindi ci permettono effettivamente di poter far fronte alla richiesta, perché su 200 bambini abbiamo calcolato che circa il 30% non avranno la possibilità di poter pagare la resta, anche se calmierata. Certo. Senta, ma intanto ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che, se ho capito bene, bastano 30 euro per poter garantire un'intera settimana a un bambino che non se lo può permettere. Già questa mi sembra una buona notizia. E poi io in realtà le volevo fare delle domande su quello che secondo me si stanno un po' chiedendo tutti, ovvero che cosa succede in queste summer school, come si fa a far giocare i bambini, che giochi si può fargli fare. Io ho 10 nipoti e abbiamo fatto una piccola riunione di famiglia. È molto difficile, i bambini quando giocano certo che si toccano, sudano e si buttano uno contro l'altro, quindi per capire che tipo di giochi si faranno. Allora, diciamo che i giochi che si faranno saranno abbastanza tradizionali. La lotta al Covid sarà fatta perché verrà tutto organizzato in micronuclei di 7 bambini, per cui ovviamente il contatto tra i bambini ci sarà unicamente tra questi 7. Ovviamente poi abbiamo preso spunto dalla Federazione del Rugby, che ha studiato tutta una serie di attività ludiche e sportive a minimo rischio di contagio, per cui fondamentalmente fondamentalmente i bambini condivideranno solamente una palla e solamente all'interno del mini nucleo. In questo modo, anche se si sviluppasse una positività, per cui venisse trovato un qualcuno di positivo, il contagio resta all'interno del mini nucleo e l'intera iniziativa può andare avanti, certo, perché viene messo in quarantena nel mini nucleo, vengono sanificati immediatamente gli ambienti utilizzati dal mini nucleo e le attrezzature, dopodiché si può proseguire con l'iniziativa aspettando che il mini nucleo esca dalla quarantena. Ma come mai il rugby? Perché non mi viene in mente uno sport più di contatto del rugby. Allora, è verissimo, il rugby è uno sport di contatto, ma è anche uno sport che fa dell'inclusione e dell'aiuto per le persone in difficoltà due dei suoi capisaldi. Vero, per cui una bandiera. Nel rugby la solidarietà è proprio intrinseca all'interno delle regole sportive. Inoltre, vero, con il rugby c'era già una collaborazione di più di un anno su dei servizi di assistenza scolastica, e quindi Rugby Brescia è stata la prima scelta come realtà partner, in quanto disponeva di enormi spazi, personale dedicato e altamente qualificato per la gestione dei bambini e soprattutto un'anima sociale che come raramente ne abbiamo trovate nel mondo sportivo. E quindi ecco, vi ricordo come si fa rapidamente, se riesce, a contribuire. Allora, i metodi sono molteplici, i più rapidi sono andare sulla colletta online di splitted.it/estatesospesa, dove si può donare telematicamente, altrimenti all'iscrizione del bambino, è una cosa che ci sta facendo piacere, molti lo stanno facendo, si può scegliere di pagare la propria retta più un contributo per un bambino terzo. E questo però vale per chi è a Brescia, quindi molte famiglie che iscrivono il bambino in realtà scelgono l'opzione solidale, per cui in automatico pagano anche per un bambino terzo. Grazie molto a Filippo Abrami. Perfetto. Buon lavoro, buona summer school, buona estate. Se digitate estate sospesa su Google, il primo risultato che esce è proprio quello, con esatto, di cui stiamo parlando. Gabriele ha chiamato invece dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Allora, per il personaggio, secondo lei, sì. Il personaggio è l'architetto Boeri, che io conosco tra altre cose. Mm-hmm. E cosa Stefano ha fatto? Boeri. Per quale motivo le è venuto in mente l'architetto Ma no, Boeri? Perché io faccio l'economista ambientale, sono un economista ambientale e l'ho anche conosciuto, e il personaggio, secondo me, dalle descrizioni che voi fate, è sicuramente quello, secondo me, naturalmente. Certo. Allora, sentiamo un certo po'. No. Non è lui, anche se corrisponde. No. Non c'era una notizia della settimana. Avremmo bisogno di una notizia, che non so se è il fatto che ha conosciuto lei. Forse è questa la notizia, ma purtroppo noi non l'avevamo scelto, Stefano Boeri, che salutiamo. Grazie Gabriele, che ha chiamato dalla provincia di Milano. Adesso, ma direi da Milano, ad occhio e croce, viabilità. Si può fare. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre, al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe, un unico partner, mille risorse. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Premio L'altro pianeta. E il premio L'altro pianeta di questa settimana lo attribuiamo all'azienda vicentina Crocco, che è qui rappresentata dall'amministratore delegato Renato Zelker. Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno anche a tutti i vostri radioascoltatori. Per questo nuovo packaging con plastica da riciclo che avete appena presentato, materiale riciclato fino al 60% del totale con impatto azzerabile dal punto di vista delle emissioni di CO2. Ci sembra un bellissimo risultato e importantissimo in questo periodo in cui tra l'altro parliamo tanto di monouso, e quindi se si riesce poi nello specifico della plastica a riutilizzarlo per fare imballaggi, ci sembra una grandissima notizia. Come funziona un po'? Noi su questo progetto ovviamente ci stiamo lavorando da parecchio tempo. Come voi sapete, ho seguito un po' anche la trasmissione questa mattina, quindi noi continuiamo ad essere un po' nell'occhio del ciclone, cioè siamo visti sempre un po' come quelli che inquinano il mondo e fanno poco per l'ambiente. In realtà questo non è assolutamente vero. E noi abbiamo iniziato. Diciamo che non tutti, ecco, non perché tutti, qualcuno forse mi permetta di dire che non è proprio sulla vostra linea, ma comunque parliamo di quelli che cambiano. Sì, ecco, però non bisogna mai fare tutta la buon fashion, insomma, bisogna guardare, poi analizzare le cose nel dettaglio, cercare di affrontarle in modo scientifico, quindi con numeri dati alla mano. E tutto nasce dal fatto che adesso anche in ambito europeo ci sono alcune aziende hanno preso degli impegni volontari, quindi la volontà è quella di riutilizzare il più possibile la plastica da riciclo, quindi l'importante è creare delle strutture, organizzare la raccolta in un certo modo, far sì che la selezione venga fatta in un modo altrettanto sicuro per poi poter permettere il riutilizzo, perché già questa non è una novità assoluta. La novità nel nostro caso è che abbiamo utilizzato del materiale del ciclo post-consumo in un'applicazione molto delicata, che comunque serve per imballi secondari, per il beverage o per l'uso alimentare, e l'abbiamo fatto certificando la materia prima. Quindi noi abbiamo ottenuto il marchio plastica seconda vita certificato da un ente terzo, nel nostro caso SGS, che garantisce e conferma l'utilizzo di questo tipo di prodotto. Questa è una cosa che noi abbiamo spinto fortemente e che cercheremo di portare avanti in futuro, perché permetterà ai nostri clienti poi a loro volta di comunicare questo al mercato e di azzerare poi quelli che sono azzerare o perlomeno ridurre quelli che sono gli impatti ambientali. Noi su questo stiamo lavorando molto, abbiamo creato un progetto all'interno dell'azienda che si chiama Greenside, abbiamo creato una struttura un polo dedicata, abbiamo messo a capo un ingegnere chimico, una donna che funge da sustainability manager, per mettere in condizione i nostri clienti. Ci ha detto che è una signora, per sottolineare che siete. Sì, ma visto va di moda le quote rosa, però tra la selezione che ho fatto, quella che mi ispirava di più. Ah, ecco, questo è ancora meglio. Va bene. Questo che aveva. Sicuramente sì. Questo consente, perché oggi si parla. Noi viviamo in un mondo in cui tutti sono diventati ingegneri ambientali. Cioè, prima erano tutti i commissari tecnici della nazionale, oggi sono tutti ingegneri ambientali, tutti sono in grado di giudicare, dire, fare. E invece, insomma, ci sono elementi. C'è anche una buona parte di virologi. Ecco, poi quelli li aggiunti lei, quindi bisogna vedere anche quello. E quindi noi, valutando, abbiamo sviluppato uno studio del ciclo di vita del nostro prodotto, quindi lo dico in inglese anche se so che tanti ascoltatori in inglese piace poco, come l'LCA, quindi Life Cycle Analysis, per definire in modo preciso quelle che sono le emissioni dei singoli prodotti. Questo consente a noi di sviluppare indirizzare i nostri sviluppi in certe direzioni e consente ai nostri clienti di fare valutazioni, cioè se usa un tipo di prodotto avrà un certo tipo di impatto, se vuole qualcosa di alternativo ha la possibilità di verificare poi cosa significa questo in termini di numeri. Questa è un po' la nostra. Che è poi fondamentale, perché così uno compie la sua scelta consapevole e poi risponderà anche delle richieste che gli vengono fatte via via dall'Italia, dall'Unione Europea. E a questo proposito vorrei anche farle i complimenti, perché lei è stato appena confermato presidente di IUPC, che è l'Associazione Europea dei Trasformatori di Materie Plastiche, quindi insomma c'ha anche uno sguardo sul continente. Sì, questo indubbiamente. Sì, tra l'altro la riconferma mi ha fatto molto piacere, ma oltre che a titolo personale, anche perché questo è la dimostrazione che l'industria italiana nel settore delle materie plastiche è molto importante, quindi questo è un riconoscimento anche per quello. Tenga conto che noi siamo il secondo paese dopo la Germania per importanza nel nostro settore. E quando si parla di plastica è un mondo vastissimo, un mondo molto eterogeneo, quindi si tende con una singola parola a parlare di un mondo che invece è molto complicato e molto è molto diverso. E che è tutto sommato, direi io, non so, con l'esperienza che stiamo facendo in questi mesi, anche importante avere in casa, nel senso che la produzione europea controllata, con attenzione al riciclo, con le emissioni controllate, eccetera, eccetera, ci garantisce le forniture quando ne abbiamo bisogno. Tenga presente che noi, soprattutto in questo periodo di lockdown, siamo stati veramente sotto pressione, perché i nostri prodotti sono stati considerati a livello europeo essenziali. Quindi noi di fatto non ci siamo mai fermati e abbiamo garantito la produzione per soddisfare soprattutto le catene alimentari, agroalimentari, il settore del farmaceutico, quindi abbiamo fatto la nostra parte. Mm. Il problema è legato, perché se ne parla sempre poco, però io tornerei a parlare anche un po' dell'aspetto dell'educazione. Cioè, l'esempio classico che faccio di questi giorni è quello delle mascherine. Oggi cominciamo a vedere, mi arrivano foto anche da altri paesi, di mascherine, guanti gettati sulle rive del fiume, addirittura già su qualche spiaggia si cominciano a vedere mascherine, si vedono per la strada. Allora io mi domando, cioè, se approcciamo questa cosa come abbiamo fatto in passato, cosa dobbiamo fare per eliminare il problema? Le proviamo. Però nessuno si pone la domanda di dire, ma perché non cominciamo a educare le persone a disporre in modo adeguato questi prodotti? Perché è da lì che bisogna partire. Se noi vogliamo creare un'economia circolare, ognuno deve fare la sua parte. Esattamente. Noi da soli, come produttori, non possiamo risolvere il problema di tutti. Noi siamo una parte importante, siamo disposti a fare la nostra parte, ma bisogna che poi a monte si cominci a disporre dei rifiuti nel modo adeguato, che vengano raccolti e selezionati in modo tale che si possa creare quel fenomeno di economia circolare sul quale stiamo lavorando. Perfettamente, condividiamo. Renato Zelker, la D di Crocco SPA, la ringraziamo molto e buon lavoro, e ancora congratulazioni appunto per questa riconferma. Grazie mille, buon lavoro anche a voi. Salute. E abbiamo in conclusione Anna che ci ha chiamato da Milano per il personaggio della settimana. Sentiamo Anna se indoviniamo in corner. Buongiorno. Buongiorno Anna. Mi senti? Complimenti. Buongiorno. Forte e chiaro. Siete un appuntamento fisso della domenica mattina. Grazie. Vi ascolto veramente. Grazie. Sempre con ci molto piacere. Sabato, se vuole, signora. Lo so. Sto però fare la spesa più difficile che vi senta. Ubi Maior. Secondo me il personaggio della settimana è Giorgio Armani, che è un grande stilista. Ha avuto un sacco di riconoscimenti durante la sua vita in Italia e nel mondo, però ultimamente ha vinto anche un premio dal Parlamento europeo, che ho proprio notato perché mi ha colpito, la moda veste la pace, in cui perché si sta impegnando per fare una moda più etica, che rispetti di più gli animali, che sia più durevole nel tempo. Vediamo, la devo interrompere perché poi dobbiamo salutare. Signora. Ed era lui, era veramente è preparata Re Giorgio. Ed è anche brava. Grazie. Ha vinto, signora. Bene. Le recapiteremo. Ci sento. Lo so, però appena riapre ricominciamo. Dobbiamo salutare tutti, Carlo. Sì. Allora, Danilo Di Trani, Andrea Piana, Edoardo Lavezzari, Carmelo Lauricella in regia, da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto e ciao da Carlo Gabardini. Alla prossima.